Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica, del tutto fuori dal coro. Come ho capito di essere gay? Capire di essere gay? Il mio vero problema per almeno 3 anni è stato proprio questo, il non averlo capito. Fino a 17 anni mi sono sentito etero, non molto entusiasta nel correre appresso alle ragazze. Lo subivo più che altro, però ci stavo, non dicevo di no. Mi facevano la corte, credo di essere anche un bel ragazzo e qualche ragazza ci provava sempre. A scuola i miei compagni ci avevano tutti la fissa di andare a ballare, specialmente il sabato sera in discoteca. Qualche volta ci sono andato anch'io, tra i 17 e i 18 anni, ma in effetti la cosa non aveva per me l'interesse che aveva per gli altri. Loro andavano lì per potersi appartare con le ragazze, magari senza fare niente di male. Io ci andavo e non ballavo quasi mai. Quando mi capitava di abbracciare qualche ragazza, diciamo, cercavo di tenerla a una certa distanza da lì, avete capito? Tutte queste cose mi avrebbero dovuto fare pensare, e invece non succedeva così. E il perché l'ho capito dopo. Io allora frequentavo molto la chiesa. Adesso sono proprio in crisi da questo punto di vista, ma allora non era così. Allora non pensavo proprio di essere gay, cioè non è che mi ponevo il problema e concludevo che non ero gay, il problema non me lo ponevo proprio, per me era evidente che ero etero. Tentazioni gay non ne sentivo proprio, lo so che vi sembrerà assurdo, ma non succedeva. Ho letto su questo forum dell'erezione del masturbarsi per un amico, oggi lo so che cosa significa, ma allora non succedeva. Quel po' di fantasie sessuali che facevo le facevo sulle ragazze, un po' perché tutti le facevano sulle ragazze. Cioè, se dovessi dire, allora io sublimavo tutto o quasi, mi masturbavo, sì, ma pensando alle ragazze, anche se non era una cosa entusiasmante. Ma guardate che non mi faceva proprio nessun effetto, nemmeno fare la doccia con i miei amici in piscina, proprio niente. Io di aver ridotto la mia sessualità ai minimi termini me ne faceva addirittura un vanto. Quando andavo a confessarmi, qualche volta almeno, non dovevo nemmeno raccontare al prete di essermi masturbato, perché per me non era una fissa, e mi sentivo molto orgoglioso di questo. Voi potete dire, ma allora come vivevi? Praticamente tutto sport, scuola, volontariato. Insomma, io ero un nuotatore quasi da selezioni nazionali. Non proprio, ma ci andavo vicino. E per me quelle cose erano importantissime. Passavo in piscina i pomeriggi interi e il mio allenatore l'idea di mandarmi ai campionati italiani la considerava realistica e la cosa mi gratificava moltissimo. E non so se voi sapete a che livello di allenamenti è sottoposto al nuotatore del livello mio di allora. Poi ci mettevo lo studio, perché ero pure molto bravo a scuola e la cosa mi faceva sentire perfetto. I professori a scuola mi dicevano che ero bravissimo. L'allenatore mi diceva che potevo andare ai nazionali, i preti mi dicevano che facevo benissimo a non masturbarmi, voi potete capire che mi sentivo il modello di ragazzo perfetto. Solo a mio padre, qualche volta, gli deve essere venuto qualche dubbio, ma non qualche dubbio che io fossi gay. No, semplicemente che io la mia sessualità l'avessi messa da parte per dedicarmi ad altre cose. Papà cercava di dirmi che nella vita ci sono altre cose. Lui voleva sicuramente parlare di ragazze, non le nominava nemmeno. Io gli rispondevo che avevo tantissime altre cose da fare e che alle ragazze io ci pensavo e come. E io allora ero veramente convinto di pensarci. Insomma, la cosa è andata avanti così fino a 19 anni. Poi mi sono iscritto a ingegneria e a ingegneria ho incontrato Stefano. E lì è cominciata la nostra storia. Dopo i primi giorni di lezione vedo che c'è un ragazzo molto serio, un po' come me, uno che prende sempre appunti, che non esce durante gli intervalli, che sta sempre lì col libro davanti, che dà poca confidenza, che non perde tempo, insomma lo noto, sì, ma non ci faccio nemmeno troppo caso. Poi capita una cosa imprevedibile. Il professore di analisi spiega il teorema di Heine-Cantor, facendo questa premessa: io lo spiego ma tanto non ci capirete niente. Per com'ero io allora, dirmi una cosa del genere era come gettarmi un guanto di sfida. Io dovevo capire il teorema di Heine-Cantor. Mi ci metto col massimo impegno, un po' a occhio ci si poteva anche arrivare, ma non capivo proprio perché fosse una cosa importante e nemmeno se potesse avere un'utilità concreta. Il giorno appresso mi si accosta Stefano, benedetto sia il teorema di Heine-Cantor, e mi fa: «Ma tu l'hai capito il teorema che hai spiegato ieri?» Badate bene che per me quella domanda non aveva in nessun modo il sapore di un approccio personale, era solo una richiesta di spiegazione al teorema di analisi. Ho cercato di farmi maestro, a partire da quello che avevo capito, ma Stefano mi rispondeva con obiezioni alle quali io non sapevo nemmeno rispondere. Allora finivo per sorridere e per allargare le braccia, come per dire, beh, oh, forse non ho capito proprio niente. Quando comincia la lezione successiva, resta seduto vicino a me. Beh, non ci faccio nemmeno caso. Poi alla fine della lezione mi dice, ti va se proviamo a capire come funziona il teorema? Io dico di sì e passiamo l'intero pomeriggio sul teorema di Heine-Cantor. Piano piano la questione si chiarisce e alla fine la cosa sembra piuttosto semplice. La sera ci lasciamo dicendoci che l'indomani saremmo andati a chiedere al professore se quello che avevamo capito era giusto. La sera a casa mi sono ripassato il teorema e l'indomani, dopo la lezione, abbiamo chiesto al professore che ci ha detto che il senso era esattamente quello che avevamo capito noi. Mi sentivo raggiante, ma, lo ripeto, solo per il teorema di Heine-Cantor. Nei giorni successivi a Stefano è venuta l'idea che si poteva anche studiare insieme, perché eravamo tutti e due dei tipi seri, di quelli che non perdono tempo, insomma abbiamo cominciato a studiare insieme. Ci tengo a sottolineare che noi studiamo soltanto, di altro non si parlava quasi mai. Eravamo troppo presi dall'idea di fare tutti gli esami al primo appello, per noi era quello il primo obiettivo. In pratica abbiamo solo studiato fino alla fine degli esami e li abbiamo fatti tutti in tempo e con tutti 30 e, ve lo garantisco, non era per niente facile. Ci sentivamo in estasi, però finiti gli esami, già dal giorno appresso lo studio con Stefano mi mancava da matti e credo che succedesse anche a lui. Mi chiama e mi dice, che fai oggi? Gli rispondo, niente. Così ci vediamo il pomeriggio presto, ma non avevamo niente da fare. Abbiamo parlato tutto il pomeriggio, io cattolico fino all'osso, lui tutt'altro, però rispettoso. Quanto a idee politiche non eravamo molto lontani. Poi abbiamo parlato di libri, di cinema, di canzoni, di professori del liceo, di tantissime altre cose, ma mai di ragazzi o di sesso. Io allora a queste cose non ci facevo caso. L'ho capito solo dopo il senso di quei discorsi. Al momento di salutarci, gli chiedo che cosa pensa di fare l'indomani. Lui mi propone una mostra sugli impressionisti e io accetto. L'indomani, dopo la mattina alla mostra, nella quale lui sapeva tutto più di un professore di storia dell'arte, andiamo a mangiare qualcosa in un fast food e poi ci mettiamo a camminare per la città. Insieme stiamo bene, siamo due amici a spasso in un bel pomeriggio di luglio. Insomma, le cose sono andate avanti così per buona parte dell'estate. I miei ad agosto andavano in montagna per 3 settimane, io ero sempre andato con loro. Chiedo a Stefano che cosa farà ad agosto e lui mi chiede, tu che farai? Allora gli dico distinto, io resto in città. E lui mi dice, pure io. Mi sento contento. Quando torno a casa dico ai miei che non andrò con loro in montagna. Mio padre mi dice solo, però non ti impazzire sui libri. In quel momento, per la prima volta, mi rendo conto che ho rinunciato a 3 settimane di montagna per restare con Stefano. Tanto tempo dopo, lui mi ha detto che aveva fatto esattamente la stessa cosa per restare con me. Quando i miei non c'erano, Stefano veniva a casa mia. Il sesso non ci passava nemmeno per l'anticamera del cervello, né a lui né a me. Eravamo felici di stare insieme, di parlare, di cucinare, di riposarci, di raccontarci prudentemente la nostra vita. In quei pomeriggi abbiamo cominciato a parlare di sesso, due amici etero che parlano di sesso. All'inizio mi racconta delle sue ragazze e io gli dico delle mie avventure, se le possiamo chiamare così. Poi la nostra confidenza è diventata piano piano maggiore e lui mi ha detto che però non era entusiasta del sesso. Io gli ho detto che accadeva anche a me e allora ne abbiamo parlato in un modo un po' più libero. Ma per me, credo, e anche per lui, c'era comunque un senso di liberazione incredibile. Poter parlare di sesso in quel modo non è una cosa facile per noi. Anche se in effetti se ne parlava ancora più per allusioni che in modo diretto, ma la sostanza era quella di un discorso serissimo. Né a lui né a me passava minimamente per la testa di essere gay, eravamo solo due etero, diciamo così, non entusiasti, tutto qui. Poi Stefano si è bloccato del tutto. La scioltezza dei giorni precedenti sembrava sparita. Veniva a casa mia, ma voleva che non si restasse a casa, ma che si uscisse subito per andare in giro per la città. Non parlavamo più di noi, ma solo di mostre e di libri, e io non ne potevo più. Ma non ho detto niente. Una sera, quando se n'è andato, cercato di non darmi l'appuntamento per l'indomani, era scostante, una cosa che non aveva mai fatto prima. L'ho messo alle strette, si vedeva che era imbarazzatissimo. Mi ha detto: "Dai, non mi va di parlarne, non ti preoccupare, non ce l'ho con te." E se n'è andato. Io ci sono rimasto malissimo, ma non sapevo che pensare. L'ho chiamato sul telefonino, mi rispondeva cose brevissime e poi chiudeva, ma io non ho mollato e alla fine mi ha detto: "Vabbè, vengo domani, è pure giusto che tu sappia." L'indomani è venuto. Era tesissimo, mi ha chiesto di non interromperlo e in pochissime parole mi ha detto che pensava di essersi innamorato di me. Ma che la cosa gli sembrava assurda perché non si era mai innamorato di un ragazzo e invece gli stava succedendo. Io allora pensavo di essere etero e gli ho risposto come pensavo che un bravo ragazzo etero dovesse rispondere a un amico gay che gli faceva un discorso simile. Gli ho detto: "Mi dispiace che non posso corrisponderti perché io sono etero, però ti voglio bene." Non me l'ha nemmeno fatto finire di dire e se n'è andato dicendo che non ce la faceva stare lì. Quando se n'è andato ho sentito una sensazione violenta di vuoto. Sono rimasto qualche minuto imbambolato, poi sono andato di corsa alla fermata dove doveva prendere l'autobus. L'ho visto salire e non ho fatto a tempo a raggiungerlo. Mi sono sentito morire. Mi sono detto: "Ma io questo ragazzo lo amo. Non so se c'entra il sesso, ma io non posso stare senza di lui." Gli ho mandato un SMS: "Ti amo, adesso l'ho capito." Lui mi ha chiamato e mi ha detto: "Ma è vero?" Gli ho risposto: "Ti sono corso appresso alla fermata e ti ho visto partire, ma non sono riuscito a raggiungerti e mi veniva proprio da piangere. Non riesco a fare a meno di te, senza di te mi sento morire, ti prego, non mi mollare così, io ti amo, Stefano, ti amo." E lui ha detto: "Resta alla fermata, arrivo subito," e ha chiuso. 10 minuti dopo l'ho visto arrivare di corsa tutto trafelato. Mi ha abbracciato in mezzo alla strada, stavamo piangendo tutti e due. Non pensate che siamo andati a casa a fare sesso, per arrivarci ci abbiamo messo più di un mese. Ha voluto che facessimo entrambi prima il test per l'AIDS e poi i nostri rapporti sono stati proprio caratterizzati da una forma di timidezza reciproca, di esitazione, un po' come dice Project. Adesso stiamo insieme da un anno. Abbiamo fatto tutti gli esami anche del secondo anno. Io penso che senza Stefano non mi sarei mai nemmeno accorto di essere gay. Adesso abbiamo una sessualità tutta nostra, ma è troppo nostra e non ve la racconto. Volevo solo dire che ci sono tanti modi per arrivare a sentirsi gay e che ci sono tanti modi di essere gay ed è difficile capirli fino in fondo. Grazie a tutti e grazie a Project in particolare. Questa è la voce del progetto, una voce libera e laica del tutto fuori dal coro.